Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. They spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned. Come on, darling, eat. Eight is a more cannibals. Eight, eat, eat. Yeah, eight is a more cannibals. Eight, eat, eat. Tutto quello che è innominato e non rappresentato con immagini, tutto quello che è chiamato con il nome sbagliato e reso introvabile, tutto quello che è sepolto nella memoria sotto le macerie di un linguaggio inadeguato e menzognero, tutto questo diventerà non soltanto non detto, ma indicibile. Adrienne Rich. Buonasera a tutte e a tutti. Oggi parleremo della cultura del carnismo, così come l'ha definita e descritta la sociologa, psicologa e attivista statunitense Melanie Joy nel suo libro Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche. In particolare affronteremo alcune delle più ricorrenti e diffuse giustificazioni del carnismo e alcune delle idee più diffuse sulla naturalità del comportamento umano. The patriarchal gaze sees not the fragmented flesh of dead animals, but appetizing food. Vegetarian activities counter patriarchal consumption and challenge the consumption of death. Feminist vegetarian activity declares. Nel secondo capitolo del libro intitolato Carnismo è solo il modo in cui stanno le cose, l'autrice, Melanie Joy, spiega come l'ideologia del mangiare carne, altrimenti denominata carnismo, sì, in realtà un costrutto culturale e non un dato di fatto della condizione umana, e come tale deve essere trattato. Cosa succederebbe, chiede ai suoi studenti universitari, se ad una cena da amici la padrona di casa ci dicesse che quel delizioso spezzatino che abbiamo appena mangiato in realtà non è uno spezzatino di manzo, ma uno spezzatino di cane? Forse ci metteremmo a pensare alle qualità di un cane e ci verrebbero in mente cose come la tenerezza, la fedeltà. Mentre se pensassimo a un maiale, penseremmo ad esempio al fango, al sudore o alla sporcizia. Ogni anno la sociologa fa svolgere ai suoi studenti questo esercizio e le risposte che riceve sono invariabilmente sempre le stesse. I cani sono divertenti, affettuosi e protettivi, mentre i maiali sono pigri, stupidi, grassi e brutti. In sostanza, gli studenti descrivono la relazione che hanno con gli uni e con gli altri in questi termini. I cani ovviamente sono nostri amici e membri della famiglia, i maiali sono cibo. In sintesi le persone pensano questo. I maiali poltriscono tutto il giorno. A pensarci bene però per maiali si intende quelli d'allevamento intensivo e poltriscono perché si annoiano a stare dietro una gabbia senza fare niente tutto il giorno. I maiali sono stupidi. In realtà è dimostrato scientificamente che sono perfino più intelligenti dei cani. I maiali sudano. In realtà non sudano affatto perché sono privi di ghiandole sudoripare. I maiali adulti sono brutti. Tuttavia molte persone ritengono che i maialini, i cuccioli di maiale, non lo siano affatto. I maiali sono sporchi perché si rotolano nel fango. In realtà i maiali si rotolano nel fango per rinfrescarsi quando fa caldo, dal momento che non sudano. I maiali sono sempre sporchi a differenza dei cani che lo sono molto meno o che lo sono a volte. Le persone convinte di questo non hanno mai visto un maiale dal vivo, la maggior parte lo ha visto solo in fotografia. I cani sono sensibili, proprio come le persone, mentre i maiali no. In realtà la maggior parte delle persone ignora che i maiali sono così sensibili da sviluppare comportamenti ossessivi come le automutilazioni quando sono tenuti in cattività. Il motivo per cui mangiamo maiali e non cani è che i cani hanno una personalità e non si può mangiare qualcosa che ha una personalità. Hanno un nome, sono individui. Forse se incontrassimo un maiale scopriremmo che anche lui ha una personalità, proprio come il cane. Ma il punto è proprio questo: la maggior parte delle persone non ha mai visto un maiale, e le informazioni, o meglio i pregiudizi che ha rispetto a questi animali, sono stati ricavati da libri, televisione, pubblicità e film. Probabilmente, se attribuissimo le stesse caratteristiche dei cani ai maiali, ci sembrerebbe strano mangiarli, oppure non li mangeremmo affatto. Il punto, ribattono molti, è che i maiali sono allevati per essere mangiati. Le cose stanno così. Già, le cose stanno così. Il nostro atteggiamento verso gli animali è del tutto incoerente. Abbiamo condannato una specie alla tortura e al macello soltanto perché abbiamo deciso di cibarcene, mentre ne abbiamo scelta un'altra a cui riserviamo il nostro affetto e le nostre attenzioni. Questa incoerenza è di per sé assurda, dal momento che non sappiamo per quale motivo abbiamo deciso di condannare una specie a scapito di un'altra. Non sappiamo e non pensiamo mai al perché mangiamo una specie piuttosto che un'altra, ma l'assenza di una riflessione su questa scelta giova soltanto a un'industria, quella della carne, che ogni anno uccide 10 miliardi di animali soltanto negli Stati Uniti. Cos'è che rende le persone incapaci di pensare alle proprie scelte? E la risposta di Melanie Joy a questa domanda è appunto il carnismo. I vegetariani, si sa, sono persone che non mangiano animali perché non lo ritengono etico e sono visti dagli altri come gente con una certa impostazione filosofica, secondo la quale uccidere animali per fini umani è considerato immorale. Ma se il vegetariano è una persona che non mangia carne per motivi etici, come chiamiamo allora una persona che invece sceglie di mangiarla? Se il vegetariano non mangia carne, non perché non gli piace, ma perché promuove un sistema di valori etici relativi agli animali, dal suffisso ariano, che denota una persona che sostiene un insieme di principi, allora il mangiatore di carne non risulta affatto una definizione appropriata per chi si alimenta di animali. Perché? Perché il termine mangiatore di carne indica che una persona che mangia carne agisce al di fuori di un sistema di credenze. Tuttavia, però, mangiare animali e avere delle convinzioni su di loro fa parte di un sistema di credenze. A quali credenze fanno riferimento allora i mangiatori di carne? In gran parte del mondo industrializzato, afferma Joy, le persone mangiano carne non perché ne abbiano davvero bisogno, ma piuttosto perché gli piace. La maggior parte mangia animali perché l'umanità lo ha sempre fatto. Le cose, in sostanza, stanno così. Mangiamo animali senza pensare, perché lo riteniamo naturale e normale, ma questa scelta è frutto di un sistema di credenze che sottende a questo comportamento. La differenza col vegetarismo è che questo sistema, denominato carnismo, è invisibile. Il carnismo è quel sistema di credenze che ci condiziona nel mangiare certi tipi di animali piuttosto che altri, sebbene gli esseri umani non siano carnivori, cioè non dipendono dalla carne, né onnivori, perché biologicamente non abbiamo bisogno di carne così come dei vegetali, ma solo di quest'ultimi. Quella che compiamo è dunque una scelta che si basa su un sistema di credenze, un'ideologia, il carnismo appunto, che rimane nascosta e che risulta particolarmente refrattaria a un'indagine approfondita. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having the sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand, but as it came down near, so did a weary tear. Quali sono dunque le caratteristiche del carnismo? L'invisibilità del carnismo. Proprio come il femminismo, il vegetarismo è un'ideologia che sfida il sistema di valori dominante e ritiene che il carnismo, benché tradizionalmente condiviso, non rispecchi un sistema di valori perpetuo e immutabile. Quel che noi consideriamo normali non è nient'altro che l'insieme di valori e delle credenze che riflettono i valori della maggioranza. Si tratta di pratiche sociali che vengono considerate logiche e frutto del buonsenso piuttosto che quello che effettivamente sono, e cioè opinioni, o meglio scelte. proprio come le femministe che hanno dato un nome all'ideologia maschilista chiamandola patriarcato, i vegetariani hanno dato un nome all'ideologia del mangiare carne chiamandola carnismo. Questo è successo più di 2500 anni fa. Vegetariani erano già i discepoli e seguaci del filosofo greco Pitagora, mentre il termine vegetariano è nato già nel XIX secolo. Vediamo quindi che il vegetarismo è stato individuato ed etichettato molto tempo prima del carnismo, non solo perché è un'ideologia alternativa a quella dominante, ma soprattutto perché il carnismo è rimasto invisibile, grazie al suo anonimato. Ciò significa che al carnismo per secoli non è stato dato un nome, il che ha fatto sì che non se ne potesse parlare per molti secoli. Il carnismo è un'ideologia che lavora per mantenersi nascosta. Da qui scaturiscono le difficoltà che abbiamo nel riconoscerla e metterla in discussione. Il carnismo è un'ideologia che è organizzata sulla violenza fisica. Se rimuovessimo tale violenza, cioè la tortura e la macellazione degli animali, tale ideologia scomparirebbe così come è apparsa. Il carnismo moderno si basa sulla violenza estensiva, cioè sull'ingente uccisione di animali per consumo umano, a scopo di profitto da parte dei colossi industriali della carne e dei derivati animali. La quantità di animali uccisi annualmente è davvero impressionante. Negli Stati Uniti, ad esempio, vengono uccisi circa 10 miliardi di animali l'anno, per lo più mucche e pochi altri animali, e circa 10 miliardi di pesci e di altri uccelli marini. Secondo alcune associazioni mediche statunitensi, i prodotti animali possono contenere livelli pericolosi di pesticidi, arsenico, antibiotici, ormoni, organismi microbici, causa di malattia o morte. Il processo di macellazione, infine, contribuisce al degrado ambientale, alla crudeltà nei confronti degli animali e alla violenza e alla violazione dei loro diritti. Ma queste informazioni non compaiono sulle etichette dei prodotti in vendita nei supermercati, proprio per il principio dell'invisibilità dell'ideologia violenta che è sia simbolica che letterale. Il processo di macellazione produce molte sofferenze, non solo sugli animali, ma anche su chi ne è testimone. Molti attivisti vegetariani e vegani soffrono di disturbi post-traumatici da stress per aver assistito alla macellazione di animali come incubi, ansia, insonnia, flashback, difficoltà di concentrazione, eccetera. Il fatto che gli esseri umani, anche non amanti degli animali, provino sofferenza nel vedere un animale soffrire deriva dal fatto che di solito proviamo compassione per tutti gli altri esseri senzienti. Per far accettare agli esseri umani l'idea di sofferenza di altri esseri senzienti, bisogna allora desensibilizzarli, renderli cioè insensibili alla violenza, alla sofferenza altrui, insegnare loro a non provare empatia per renderli incoscienti delle proprie azioni. L'affermarsi di questa ideologia violenta dipende anche dalla sua invisibilità. I macelli sono ubicati lontani dalle case e dai centri abitati affinché le persone non vedano cosa succede al loro interno. Gonna love you till it works. I got no mind to lose. Il mito del carnismo, le tre N della giustificazione. Il sistema dominante ha bisogno di sostituire la realtà della carne con una mitologia della carne. Nel quinto capitolo, intitolato La mitologia della carne, giustificare il carnismo, Melanie Joy espone i miti che circondano l'ideologia carnista, assieme ai suoi sostenitori ed ideatori. Sono questi miti che circondano la carne a fondare l'ideologia del carnismo, che Melanie Joy lega fondamentalmente al principio delle tre N della giustificazione. Mangiare carne è normale, naturale e necessario. Queste tre N, per inciso, sono sempre state tirate in ballo per giustificare tutti i sistemi di sfruttamento, come il patriarcato, la schiavitù e il nazismo. Le tre N guidano le azioni umane in maniera automatica. Le persone le hanno interiorizzate a tal punto da vivere in accordo con i loro principi, come se fossero verità universali. in realtà non sono altro che giustificazioni che guidano non solo le nostre azioni, ma, punto fondamentale, alleviano i nostri sensi di colpa e il disagio che proveremmo se esaminassimo oggettivamente la realtà delle cose e le terribili sofferenze che le nostre azioni arrecano a milioni di animali nel nostro pianeta. Le 3N agiscono di conseguenza da paraocchi, ci forniscono delle sicurezze psicologiche ed emotive intessute di menzogne. Queste menzogne ci istruiscono a tenerci alla larga dalle nostre vere emozioni, sopprimono la nostra empatia e ci portano a negare la verità. Ma chi sono i fautori di questi miti che hanno costruito e che si adoperano a mantenere intatto questo sistema di menzogne per noi? Queste sono le istituzioni e le persone che li rappresentano, i governi, il sistema economico ed industriale, oltre che finanziario, il sistema medico, quello educativo e quello culturale. Questi professionisti plasmano il nostro comportamento nei confronti degli animali, promuovendo azioni, politiche e raccomandazioni. L'Associazione dei Veterinari Statunitensi, ad esempio, ha approvato l'uso delle gabbie di gestazione per le scrofe, larghe poco più di mezzo metro, che sono dei recinti disumani, senza contare il fatto che molti veterinari sostengono il carnismo. Questi medici sostengono l'ideologia violenta facendo passare per patologici e ostacolando coloro che vi si oppongono. In genere però tali professionisti o anche gli stessi educatori non sono consapevoli di supportare l'ideologia violenta, poiché in realtà fanno soltanto il loro lavoro. Agiscono cioè per conto di un sistema in cui sono cresciuti e di cui adottano i principi senza discuterli. I professionisti e le istituzioni in generale vengono però influenzati e cooptati da altri ideatori del mito della carne, che ne traggono i maggiori benefici e che non sono affatto inconsapevoli delle bugie che inventano, al contrario. Si tratta delle aziende zootecniche e dei loro dirigenti. Negli Stati Uniti l'ADA, l'American Dietetic Association, è l'organizzazione nazionale leader dei nutrizionisti e l'organismo governativo che controlla il riconoscimento delle università che istituiscono corsi universitari in dietetica. Tutti i dietologi registrati devono aver conseguito un diploma presso uno studio registrato dall'ADA. L'ADA è sponsorizzato essenzialmente dal National Dairy Council, l'organo che controlla i prodotti lattiero-caseari a livello nazionale. Secondo quanto afferma la stessa ADA, il suo sponsor può finanziare progetti per influenzare le opinioni in materia di cibo e nutrizione, da cui dipendono decisioni fondamentali nell'acquisto dei prodotti sul mercato. Così, lo sponsor dell'industria dei latticini ha fatto sì che l'ADA consigliasse le famose 3 tazze di latte al giorno, nonostante l'esistenza di prove che il latte sia collegato a malattie cardiovascolari, a vari tipi di cancro e al diabete. Tuttavia, il ruolo dei creatori di miti è essenzialmente quello di diffondere e mantenere viva l'ideologia dei miti già esistenti. I miti che abbiamo sulla carne, ad esempio, vengono tramandati da generazioni e vengono mantenuti in vita dai sistemi che li supportano, nonostante le persone al loro interno nascano e muoiano. In sintesi, il carnivorismo è un sistema di valori e in quanto sistema è più grande della somma delle sue parti. I creatori dei miti mantengono intatto il sistema riciclando i miti della carne e adattandoli alle tendenze del momento. Citando un classico studio condotto da Stanley Milgram sull'importanza che gli esseri umani attribuiscono all'autorità, Melanie Joy sostiene che il mito del carnismo non viene ancora messo in discussione proprio perché è sostenuto e mantenuto da coloro a cui attribuiamo in genere autorità, come i medici e gli educatori. Ma è l'autorità interna e non esterna che dobbiamo sviluppare per mettere in discussione i valori di coloro che mantengono lo status quo. I miti vengono utilizzati per legittimare il sistema che a sua volta diffonde le 3N attraverso tutti i canali affinché la gente pensi che agire in accordo con l'ideologia sia ragionevole e morale. Il sistema giuridico e i mezzi di comunicazione sono i principali sistemi di legittimazione del sistema del carnismo. Il sistema giuridico attribuisce diritti alle persone giuridiche, cioè ai componenti della comunità sociale, mentre relega a proprietà alcuni animali come quelli da reddito. Il sistema mediatico, dal canto suo, diffonde e giustifica l'ideologia del carnismo senza metterla in discussione. Uno dei modi mediante cui i media sostengono l'invisibilità del carnismo è l'omissione e la proibizione. Il trattamento violento che l'industria della carne riserva agli animali non viene denunciato, non esistono dibattiti pubblici sugli ingenti profitti della zootecnia a discapito degli animali e sul suo devastante impatto sull'ambiente e sulla salute di ogni essere vivente. C'è di più, poi, i media impediscono che tale dibattito raggiunga il pubblico, evitando di dare visibilità alle voci di dissenso o impedendo pubblicità anticarniste. Le rare volte invece in cui l'attenzione dei media ricade su queste tematiche, la questione della crudeltà viene presentata in genere come un'anomalia e non come la norma. Who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Mangiare carne è normale. Questa normalizzazione procede dalla trasformazione dei principi del carnismo socialmente costruiti in norme sociali, descrittive e prescrittive, cioè portatrici del giusto comportamento. Tali norme sociali, in effetti, non indicano solo come ci si deve comportare, ma anche e soprattutto come ci si dovrebbe comportare. Queste norme, tuttavia, non sono dogmi, ma costrutti sociali che dettano e impongono azioni e comportamenti a cui le persone si devono attenere, pena l'esclusione e l'alienazione sociale. Queste norme sono utilizzate come strumenti di controllo e assicurano la tenuta dell'intero sistema. A livello pratico, l'ineluttabilità della norma imposta fa sì che le persone la accettino meccanicamente, senza discutere, adottano dei comportamenti che sono per lo più dettati dal sistema e non scelti consapevolmente. L'oscuramento dei percorsi alternativi, che Joy chiama il sentiero della resistenza minima, viene attuato di fatto in diversi modi. Le persone si illudono che mangiare carne sia una libera scelta, quando invece qualcun altro ha scelto e imposto questo comportamento attraverso un sistema di premi e punizioni che ricompensano i conformisti e puniscono gli anticonformisti. Ad esempio, spesso risulta difficile per i vegetariani e vegani cercare alternative culinarie alla carne, soprattutto nel caso in cui decidano di mangiare fuori casa o a casa di amici, spesso dovendosi scusare di arrecare fastidio ai cuochi o nei ristoranti che non prevedono piatti vegano o vegetariani, i quali devono dunque ingegnarsi a preparare qualcosa per loro. I disagi e la condanna o gli attacchi subiti da vegetariani e vegani sono all'ordine del giorno. Spesso si trovano a dover spiegare le loro scelte, a difendere la loro alimentazione di fronte a richieste, insistenze da parte dei carnisti. E il più delle volte vengono etichettati come hippie, affetti da disordini alimentari, seguaci di qualche strana religione o addirittura misantropi. Vengono definiti ipocriti se indossano pelle, puristi o estremisti se non lo fanno. Vengono bombardati da immagini che offendono la loro sensibilità. Stando così le cose, è ovvio che sia molto più facile conformarsi alla maggioranza carnista piuttosto che imboccare strade alternative. Mangiare carne è naturale. Questa naturalità è legata alla tradizione che rende più difficile contestare o mettere in discussione un comportamento o delle credenze praticate da secoli. È vero che negli ultimi millenni gli esseri umani si sono nutriti di una dieta onnivora, sebbene tale dieta sia stata prevalentemente vegetariana. Ma il fatto che una tale pratica è stata ripetuta nel tempo, osserva Joy, non significa che sia ineluttabile o che non si possa cambiare. È evidente che la tradizione in questo caso venga strumentalizzata per far risultare il carnismo come naturale. Il carnismo è stato cioè naturalizzato. Mediante questo processo, il mangiare carne è stato fatto rientrare tra le leggi della natura, istituite dalla religione, dalla scienza e dalla storia. Mangiare carne, cioè, è considerato un atto conforme alla biologia, alla natura, all'ordine delle cose. E la biologia, si sa, è inalterabile. Il costrutto di questa naturalità biologica del carnismo trae le sue fondamenta dalla famigerata catena alimentare degli esseri viventi, un costrutto ideologico alla cui cima ci sarebbe l'essere umano, che si erge, modestamente, al di sopra di tutte le altre specie animali e vegetali. Ed è proprio per mezzo di questa superiorità biologica che gli esseri umani giustificano, come peraltro hanno sempre fatto, la violenza verso creature diverse da loro. La catena alimentare è, in effetti, la giustificazione principale adottata dal carnismo per giustificare se stesso, sebbene una catena alimentare non abbia alcuna cima, e qualora l'avesse, sarebbe occupata dai carnivori e non dagli onnivori. La superiorità degli umani, per quanto autodefinita, è stata affermata e ufficializzata attraverso la storia, la religione e la scienza. L'essere umano ritiene infatti che il mangiare carne sia una prassi antica, come afferma la storia, e che la sua superiorità derivi dalla sua spiritualità e dalla sua intelligenza, come affermano la scienza e la religione. La naturalizzazione rende l'ideologia storicamente, religiosamente e scientificamente inconfutabile. Mangiare carne è necessario. Mangiare carne, secondo il carnismo, è necessario alla sopravvivenza umana. Questo concetto è alla base di un paradosso ben più grande, quello cioè che uccidere un gruppo è necessario alla sopravvivenza di un altro. L'ineluttabilità del mangiare carne, pena la nostra stessa sopravvivenza, è un paradigma implicito che in genere viene svelato soltanto se messo in discussione. Questo mito viene tenuto in vita nonostante le ultime ricerche scientifiche dimostrino il contrario, e cioè che il consumo di carne è correlato allo sviluppo delle principali malattie della società industriali. Prendiamo ad esempio il cosiddetto mito delle proteine, che sostiene che la carne sia la fonte principale e insostituibile di proteine. Ma oggi si sa che le persone nel mondo industrializzato tendono ad assumere il doppio dell'apporto di proteine di cui hanno bisogno, il che causa osteoporosi, malattie renali, calcoli al tratto urinario e alcuni tipi di tumore. Le proteine servono alla costruzione dei muscoli, che si servono di aminoacidi essenziali. Possiamo assumere questi aminoacidi da fagioli, lenticchie, cereali e verdure. Senza contare che il mito delle proteine è stato associato alla cultura della virilità, a sua volta associata alla forza, al dominio e al controllo. Non sorprende allora che la nostra cultura, che si fonda essenzialmente sul concetto di forza maschile e da cui si originano il dominio e il controllo, sia stata costruita attorno al mito delle proteine. Tuer pour adulter la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poids et stress. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse. Pays riche et ses champs d'SDF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, j'ai jeunesse, y'a plus d'une, on se rêve. Tout trahit, on se crève. En secret, on s'aime, on trahit, on saigne. Si on faille, on sert, on crève. Si on cède, rien n'est pas si l'on sait. La vie vouée à triompher, alors brise ses chaînes. Hello, hello, j'en presse la tête dans la siècle. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie dans notre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs fera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Hello, hello, j'en précédé laisser l'histoire qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir futur, pour ne plus. et par ce qu'ils brillent, pensant à avoir, prétendant tout savoir, des abusés, à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés, insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison, digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression, arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons, inertie totale, infectée, les plaies, le sang sclérosé par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors une vie de soi fera la terre. Mais dans l'esprit, tous les soirs, fera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. J'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors une vie de soi fera la terre. Mais dans l'esprit, tous les soirs, fera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Infine c'è il discorso della libera scelta. L'ideologia carnista fa credere alle persone che mangiare carne sia assolutamente il frutto di una libera scelta, ma in realtà è il frutto di pratiche a cui veniamo socializzati fin da piccoli e che non vengono mai messe in discussione da nessuno fin tanto che non diventiamo adulti. Tali modelli stabiliti da altri per noi vengono assorbiti dalla nostra psiche e guidano così le nostre scelte e i nostri comportamenti. Anche qualora poi dovessimo venire a contatto con esempi o fatti o esperienze in cui la tortura e la macellazione animale viene svelata, e a volte succede, il sistema si riattiverebbe immediatamente per riattrarci a sé. Proprio perché viviamo in un sistema totalitario carnista e fin tanto che ci stiamo dentro, ci risulta impossibile distanziarci da esso. Melanie Joy conclude allora la sua disamina con queste testuali parole. È impossibile esercitare la libera volontà finché agiamo all'interno del sistema. La libera volontà richiede consapevolezza e i nostri modelli di pensiero comuni e radicati sono inconsci, sono esterni alla nostra coscienza e perciò fuori dal nostro controllo. Finché rimarremo nel sistema, vedremo le cose con gli occhi del carnismo e finché guarderemo con gli occhi diversi dai nostri, vivremo secondo una verità che non è di nostra scelta. Dobbiamo uscire dal sistema per ritrovare l'empatia perduta e compiere scelte che riflettano il nostro autentico modo di sentire e di credere, non ciò che ci è stato insegnato a sentire e a credere. Pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo, pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo, gente de la tierra, no niño bitongo, gente que suda y arruña con los dientes, con las uñas, gente que el machete empuña. Junta, junto, vamos a celebrar, prosperidad, salud y amor siempre van a sobrar. No sufra, no estés mal, todo va a mejorar, y con lo que tengamos vamos a disfrutar. seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. In conclusione, Melanie Joy ci ricorda il potere e l'importanza della testimonianza. Quando testimoniamo, non agiamo semplicemente come osservatori, ma ci connettiamo emotivamente con l'esperienza di coloro di cui portiamo la testimonianza. Empatizziamo. E così facendo colmiamo il gap nella nostra coscienza, il gap che permette alla violenza del carnismo di perdurare. Testimoniare ci obbliga a considerare noi stessi come fili nella rete della vita, piuttosto che in cima alla cosiddetta catena alimentare. Testimoniare mette in discussione il nostro senso di superiorità umana, ci obbliga a riconoscere la nostra interconnessione con il resto del mondo naturale, un'interconnessione che la nostra specie ha fatto di tutto perché venisse negata per migliaia di anni. Testimoniare è, in ultima analisi, liberatorio. Riconosciamo di non essere frammenti di un mondo disgiunto, non sosteniamo più un sistema basato sul dominio e sull'assoggettamento, un sistema che segue il credo di Hitler, secondo cui colui che non ha potere perde il diritto alla vita. Riconosciamo inoltre di avere il potere di scegliere un sentiero diverso, abbiamo l'opportunità di fare le nostre scelte liberamente, senza la costrizione psicologica di un sistema nascosto e coercitivo. Comprendere il carnismo può aiutarci a pensare più criticamente al sistema a cui partecipiamo e poiché le ideologie distruttive condividono simili caratteristiche strutturali, testimoniare il carnismo può offrirci una base per testimoniare gli altri sistemi. Di fatto la capacità di testimoniare si estende oltre il carnismo, perché testimoniare non è solo qualcosa che uno fa, è come uno è. Testimoniare non è una pratica isolata, ma un modo di essere connessi con noi stessi e con gli altri. È uno stile di vita che pervade le nostre interazioni. Bottom on this. Thank you. Vi lasciamo adesso con un augurio che veganesimo, vegetarianesimo, antispecismo e femminismo uniscano le proprie analisi e lotte. Sappiamo che il femminismo ha detto molto sullo sfruttamento animale, ci sono molte teoriche che hanno analizzato questo. Ci auguriamo che veganesimo e quindi vegani e vegetariani facciano lo stesso e dicano qualcosa di significativo e a livello diffuso sulla violenza contro le donne. Vi ricordiamo il nostro sito www.connettive.noblogs.org. ripeto, www.connettive.noblogs.org, dove potete trovare anche la trasmissione di stasera. E per qualsiasi informazione o qualsiasi altro suggerimento, qualsiasi cosa, abbiamo la nostra mail connettive@gmail.com. Alla prossima, ciao. As the street beneath my feet descending into air, the cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me. Boys,